di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qual è stata la grande sorpresa sportiva di questa stagione, la grande sorpresa calcistica di questa stagione? La risposta è abbastanza facile: il Carpi. E quindi abbiamo una puntata in cui vi riapriamo questa pagina di storia del nostro calcio, senza dimenticare insomma le polemiche che le hanno precedute, quella telefonata, di famosa telefonata di Lotito, e poi il risultato finale che ha portato questa squadra in Serie A. Sempre Giorgio De Luca, il nostro autore, Giovanni Melchiorre in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Come parliamo del Carpi? Come ne abbiamo parlato in quei giorni del Carpi? Con Marco Nosotti di Sky, che è di lì, di quelle parti, e soprattutto che era in campo la notte in cui c'è stata la festa della Serie A, e poi con Cristiano Giuntoli, che oggi è a Napoli, ma che è stato l'architetto, il direttore sportivo di questa squadra sorprendentemente arrivata in Serie A. Forza Carpi, grinta più che mai, gioca con amore e non fermarti mai. L'avversario non resisterà, col veleno in corpo a casa tornerà. Ne hai fatti 9 di promozione, sì. Questa è la più sofferta, la più bella, perché la Serie A arriva dopo. Ho fatto il pieno, capito? Dalla terza fino alla Serie A, alla Serie B, capito? Ho fatto il pieno, quindi ringrazio intanto la società, il direttore sportivo Giuntoli, un fenomeno, una squadra eccezionale, straordinaria, ragazzi che non hanno un passato ma avranno un futuro luminoso, e ringrazio questo meraviglioso pubblico che ci ha accompagnato in questa annata straordinaria. Forza Carpi, Leo, Leo, Leo. Forza Carpi, Leo, Leo, Leo, dai, dai, dai, yeah! Un'enorme soddisfazione, insomma, vedere che... Una grande soddisfazione. Lei se lo sarebbe mai immaginato? No, non me lo sarei mai immaginato, mai, mai, quindi merito di questi ragazzi qua. Che sapore ha questa Serie A? Beh, insomma, intanto non l'abbiamo ancora assaporata, quindi intanto abbiamo vinto la B, poi insomma vediamo quando saremo in Serie A che cosa ci aspetta, ma noi ormai abbiamo fatto tutte le categorie, quindi non ci spaventa neanche la Serie A. Bianco Rossi sempre vincito, c'è la difesa, forti gol e no, del Cavassi siete in matador, soffia l'entusiasmo, Carpi, Carpi, vai! Vabbè, andiamo bene, se oggi il primo messaggio è alla faccia di Lotito, il secondo, per tutti i convocati, quanto gli è costato all'Inter, lo leggo testuale, all'Inter, comprare la partita e l'arbitro per una partita così indegna? Poi chiameremo Bellinazzo e ci darà tutti i 100.000? Dettagli dell'affare, no, qualcosa di più, però dopo le 15 Bellinazzo ci darà tutti i numeri. Sull'acquisto della gara. Assolutamente, pagamento a rate. Ciao Pierluigi. Benissimo. Senti, la seconda festa del calcio italiano è quella del Carpi, eh? Curioso come la prima sia stata quella della Salernitana di Lotito, che è salita in Serie B. Sì, al secondo posto, tra l'altro, che il Frosinone in questo momento. Bravo, è il Frosinone. Un punto più del Bologna. Vabbè, insomma, quindi il signor Lotito risulta vagare per il grande raccordo anulare disperato in questo momento, ma non per il Carpi, per il Frosinone. Lotito pensa agli affari suoi, giustamente, penso che stia vivendo un grande momento. Forse il migliore da quando è sulla panchina, alla guida della Lazio, perché stanno arrivando i risultati sportivi e sta arrivando anche una clamorosa riconciliazione con una buona parte del pubblico. Quindi vabbè, ne abbiamo parlato mille volte di quel discorso lì, e mi rendo conto che ci sono battaglie che a parte non si frega niente di fare. Io ribadisco che secondo me, anche se so che è impopolare, quello era un discorso generale, generico, da parte di Lotito, però insomma è stata adesso per della storia che Lotito abbia un conto aperto con Carpi, cosa che non mi risulta, e quindi bene così, c'era lo striscione alla faccia di Lotito. Questa cosa qui può avere anche ulteriormente compattato l'ambiente. Io sono felicissimo che Carpi sia venuto in Serie A, perché è il trionfo di una bellissima storia di sport, sì, certo, perché non sempre il più ricco è il più forte. No, anzi, in questo caso, figurati che ma poi ne parliamo, hanno ridotto il monte ingaggi quest'anno del 40%, portandolo a 2 milioni e mezzo di euro. È una cosa bellissima, sì. Poi il discorso che faceva Lotita era un discorso invece economico, di quelli che piacciono a Bellinazzo, e è chiaro che insomma, sai, tante squadre in Serie A, sì, sì, che hanno un bacino d'utenza molto ma poi, piccolo, guarda, ma piaceranno anche a tutti quelli che l'anno prossimo non si fermeranno il sabato sera a vedere Carpi Chievo alle 18. Oggi l'hashtag alla faccia di Lotito, per carità, discorso, lo facciamo tutti, poi da settembre vediamo. Da quello che ho capito il discorso era quello, poi lo ribadisco per la millesima volta: se dopo quella telefonata Lotito ha fatto di tutto per manipolare il campionato a danno del Carpi, vuol dire che conta molto, e a favore del Bologna o del Bari, questa cosa che non è assolutamente provata allo stato attuale, certo. Se fosse così sarebbe tutto un altro paio di maniche, sarebbe di una gravità inaudita. Ma quella telefonata lì, in quei termini, è una telefonata che potrebbe aver fatto una telefonata rubata, dai. No, giornale, adesso, dai, adesso guarda Giovanni, Giovanni, detto questo, Pierluigi, Giovanni, no, ma adesso guarda, vale la pena, ci stiamo scherzando sopra. Non è il giorno oggi, insomma, abbiamo affrontato. No, però possiamo fare invece un discorso serio. Allora, passi per lo stadio, noi già da oggi concediamo la deroga perché giochino al Cabassi di Carpi, anche se tiene 4-5 mila posti, però l'inno lo devono cambiare. L'inno assolutamente. Ma lo sta facendo Paolo Belli. L'inno lo sta facendo Paolo Belli, altrimenti niente Serie A. Marco Nosotti ha raccontato la promozione e la festa. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Aspettando pure il capoluogo, il Bologna, Emilia Uberalles. Sì, sì, anche perché poi la particolarità di questa provincia è che nel raggio di 20 km c'è tanta roba. Intanto ci sono due paesotti che sono in Serie A e il capoluogo è in Serie B. C'è solo la provincia di Genova che ce n'è così, però due sono del capoluogo, sono Genova e San, con ben altro bilancio e con ben altro... Ecco, ma i modenesi doc, noso, sì. Modenese doc, tifoso del Bologna, come vive questa roba se Carpi su scuolo, eh? Soprattutto perché male. La tua formiginese non... C'è la Formigine? Sì, Formigine è ultimo in Serie D in questo momento. Ultimo in Serie D, bisogna fare qualcosa. Almeno ancora dà soddisfazione all'uomo di Modena. Però no, c'è da dire che ad esempio in questo raggio di 20 km si concentra la Ferrari, si concentra una finale di pallavolo della capitale, sì, della pallavolo maschile, e ci sono tante belle realtà. E il modenese non la prende bene, perché l'anno scorso pensava di poter far bene, di andare su, perché aveva la coppia Babacar Granoce, e quest'anno non ce li ha avuti, adesso si provano a salvarsi, e pensa a te quando i Carpi gli diranno possiamo venire a giocare da voi, diventano matti, ecco. Perché un po' di campanile c'è, i carpigiani per anni sono stati vessati perché c'erano i gialloblu più forti, ma era giusto così, perché è la più grande tradizione, eccetera eccetera. Però adesso c'è il Sassuolo che ha energie importanti, progetti importanti, ed è arrivato in Serie A, c'è il suo stadio, e mi sembra che in Serie A ci possa stare tranquillamente, perché lì non sono favole. Quella di Carpi è una mezza favola, perché hanno programmato bene, hanno speso il giusto. Beh, hanno giusto, anche preso poco, forse sotto il par del giusto per una squadra che fa la Serie B, 2 milioni e mezzo di ingaggi, 100.000 euro per i cartellini, sì. Come sai è bene, Mexes ne becca 4 all'anno, Philippe Mexes da solo, e quindi e poi facciamo i conti. Tutti convocati. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito, forse anche da sola. Sono Anna Rita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena. E quest'estate anche la domenica alle 13.30. Tutti convocati. È una grande soddisfazione perché vincere un campionato di Serie B con questa squadra è stata una cosa straordinaria. Un gruppo fantastico, una squadra meravigliosa. Gli aggettivi non riesco a trovarli per definire quanto sono stati bravi e grandi questi ragazzi. Fischia Pairetto, il Carpi è in Serie A per la prima volta in 106 anni di storia. Quando il Carpi scende sul campo, per l'avversario scampo non c'è. Corrono forte come Dorando, metri su metri avanti Andre. Dorando Pietri, cittadino. Meraviglioso, questo non è l'inno però, o è l'inizio? Non è l'inno, è la canzone del Carpi. Io voglio chiedere ancora una cosa a Marco Nosotti, com'è stato commentare, Marco, una festa davanti a 2.965 paganti? Fa effetto. Un teatro, ma ti dirò, da una parte io capisco tutto lo spot business eccetera, sta di fatto che però anche quando una squadra blasonata come il Milan non mi fa tre passaggi dietro fila, mentre questi sanno usare alla perfezione gli uomini che certo hanno, io vado. Ecco, poi c'è l'altro aspetto, se vuoi molto romantico, doveva finire lo sport se precludiamo in apertura di giochi il fatto che chi si migliora, chi rende bene, chi dà il massimo, chi supera se stesso e gli altri, poi gli dicono no, guarda, non puoi andare lassù, non sei bello, ecco, sì. Faccio un esempio, c'hai i baffi biondi, e allora per dire non c'hai soldo, non c'hai la pila, eccetera. Ecco, io capisco che ci siano delle spinte di diversa natura, ma io questo calcio è ancora bello per quel motivo lì, per quel poco che vogliamo, perché quando in campo giochi, questi hanno i numeri migliori, per dire, ma io certo, Marco. Ieri pensavo a questa città che nel 2009 hanno fuso le due società, c'ho tanti amici da quelle parti, e però si sono messi insieme e hanno fatto bene, e ieri pensavo al fatto che questi non avevano mai festeggiato davanti al proprio pubblico una promozione, ora c'è la possibilità di farlo in barba a tutti, ecco. E poi torneranno giù, forse, non lo so, e però faranno vedrà. Con dignità, impegnandosi al massimo, perché lo sport a me ha insegnato questo, che ci provi sempre nel migliore dei modi, cercando di dare sempre il meglio. Sembra retorica, fallo tutti i giorni, prendendo appunto 30.000 euro all'anno, sapendo che ti vengono a vedere in 4.000, eccetera eccetera, e dico, chi è fedele nel poco è fedele anche nel tanto. Sì. La storia ci sta, poi via. Poi vediamo. Intanto, dedicato a te, ieri c'erano cartelli Modena, provincia di Carpi. Ciao, Marco Nosotti. Posso fargli una domanda prima che lo salutiamo? No, falla al fenomeno. No, ma come è uscito vivo ieri dallo spogliatoio del Carpi? Grande esperienza, Nosotti. Grande esperienza. Il problema non è uscire dal campo, ma uscire dalla zona interviste, che era 2x2, e ci sono entrati, come fai quei record delle 500, 35 uomini una 500, lì erano uomini nudi, sudati, non so se questo può essere accattivante, non per me, ma saremmo stati in 30 e la telecamera si era appannata, era in casa, lì siamo usciti sgusciando come lottatori di lotta greco-romana. Ma Noso è il privatista mondiale di promozioni e difese, certo. Ma ero più magro, ricordo, prima, già negli anni 90, prima ci stavo meglio, prima ci entrava nella zona vista. Marco, grazie. Marco, grazie. Io voglio che Pardo faccia la prima domanda di giornata a quello che Castore ha definito il fenomeno, e cioè Cristiano Giuntoli, DS del Carpi. Buongiorno. Buongiorno. Beh, tra un po' parliamo anche della parte tecnica e del buongiorno futuro. A tutti. Il fenomeno, come è stato definito giustamente, siete consapevoli che il discorso che faceva Marco Losotti qualche minuto fa è proprio vero, cioè che siete diventati il simbolo al di là di quella telefonata, ma siete diventati il simbolo della meritocrazia, del fatto che poi alla fine chi si impegna di più, chi suda di più, chi lotta di più, chi combatte di più riesce qualche volta nella vita a sovvertire le gerarchie precostituite. Vi sentite qualcosa di più da questo punto di vista semplicemente di una squadra di calcio? Tanto buongiorno a tutti. Sinceramente quelle parole non ci fecero bene, però abbiamo scelto la linea di non fare polemiche, di pensare al nostro quotidiano, un quotidiano difficile, un quotidiano fatto di sacrifici, un quotidiano fatto di ogni giorno di superare degli ostacoli sempre più grandi, e quindi abbiamo pensato alla nostra sofferenza, alla nostra quotidianità che ci ha portato ad arrivare fino a qui adesso. Ho visto prima un messaggio sui social: voglio FIFA 16 per far vincere la Champions al Carpi. Lì è possibile, fra un po' sarà possibile anche in magari nell'originale. Hai già pensato alla prossima stagione? Ma sicuramente un buon dirigente deve partire un pochino prima, anche perché io, non potendo fare un mercato così importante ma sempre rispettando i nostri bilanci, devo riuscire a inquadrare quegli elementi che ci possano garantire quella continuità che ci ha fatto arrivare fino a qui, e quindi tanti ragazzi che magari la sera non l'hanno mai fatta, che si possano integrare bene col gruppo, col mister, con l'ambiente, e quindi sono già partito da un po' a programmare il prossimo anno. Alzate un po' il tetto degli ingaggi o si resta sempre sui 40.000 massimo all'anno? No, ma onestamente questi ragazzi qua, il loro valore è cresciuto, e quindi se li vogliamo tenere a Carpi è giusto fargli dei rinnovi adeguati alla categoria, sempre rispettando i nostri parametri. Quindi sicuramente il monte ingaggi crescerà anche solo con questi ragazzi qua. Poi è chiaro che cerchiamo di non perdere la nostra identità, come ho detto prima. Io dico sempre che mal che vada si retrocedono e non ci ammazzeranno. Sì, poi qualche soldino arriverà, degli diritti TV, eccetera, eccetera, quindi anche il budget sarà superiore, ma sarà modello Chievo, modello Sassuolo, quindi stessa struttura che affronterà la... Sì, Sassuolo ha dei soldi Sassuolo da spendere, gli ha spesi nel tempo, però sarà... Onestamente, noi ci sentiamo, tra virgolette, un po' diversi, in quanto Sassuolo c'è la proprietà, c'è un presidente così importante da non essere paragonato, ma non ai nostri che non se ne abbiano a male, ma insomma un personaggio così importante potrebbe fare il presidente del Milan. Il Chievo negli ultimi anni comunque ha alzato un pochino i tetti, è diventata una realtà importante del calcio italiano con un fatturato sempre più grande, quindi noi siamo veramente la Cenerentola nei confronti degli altri, perché comunque a parte i soldi, ma non ci abbiamo, tra virgolette, come l'Empoli, che magari può essere nelle nostre condizioni, non ci abbiamo quella storia e non abbiamo un settore giovanile così florido da 20 anni, quindi non avendo né storia né così investimenti da fare, dobbiamo arrangiarci con delle idee come abbiamo sempre fatto. Questo non ci spaventa, sappiamo che sarà durissima più che vincere il campionato di Serie B, ma ci proveremo tutte le nostre forze. Ma con questo ragionamento, lo stadio, che evidentemente oggi non è adeguato per la Serie A, è una priorità? Oppure lei ha detto: al massimo noi retrocediamo, non ci ammazzerà nessuno, e quindi forse anche al Carpi non conviene poi investire chissà quanto su una struttura che magari serve per un anno, due anni e poi è sovradimensionata? Ma onestamente il discorso stadio va un pochino al di là, in quanto intanto dal punto di vista tecnico il senso d'appartenenza sarebbe importante per cercare di fare più punti possibili in casa, cioè creare quell'ambiente favorevole, no? E quindi anche perché andare via significherebbe perdere il senso d'appartenenza e rischiare di giocare sempre fuori casa, sia a Modena che a Parma. Ma non solo, lo stadio non è a norma neanche per la Serie B, quindi se il Carpi Calcio e il Comune vogliono dare una continuità a questa società, sarà il caso di comunque di provare a intervenire. A proposito di Comune, ha parlato il sindaco prima con il sindaco di Carpi, con Simone Spezia, in effetto giorno. Partita molto difficile, veramente molto difficile. Senz'altro le regole oggi non aiutano, le favole, no? E questo è il primo tema. I tifosi qua carpitani lo dicono da tempo. In Spagna, nello stadio dell'Eibar, 5.000 posti va a giocare Cristiano Ronaldo. Qua in Italia chiedono impianti di dimensioni molto diverse. Dopodiché è un'impresa molto difficile, c'è un progetto, cercheremo di fare quello che possiamo, sapendo che insomma Il calcio è anche un business, certo. se la società vuole perseguire questa strada, troverà senz'altro nell'amministrazione un interlocutore. Questo era il sindaco di Carpi, sentiamo Matteo dalla provincia di Modena, poi salutiamo anche Cristiano Giuntoli. Buongiorno Matteo. Buongiorno, chiamo da Carpi. Sì, lo sapevo. Prima io 2 anni fa, magari quando chiamavo, dicevo sempre da Modena, adesso posso dire da Carpi, da ieri. Mangiate un po'. Dovevi mettere in onda con Nosotti. Esatto. No, volevo solo ringraziare Giuntoli, tutto il Carpi, perché veramente ci ha fatto vivere un anno pazzesco, un anno che miracoloso è andato tutto bene. Quindi complimenti a tutti. Io, guarda, ero diffidente inizio anno, invece. E non solo ci ha fatto vivere un bell'anno, stanno già programmando una comunque mirata, e vada come vada, comunque per noi è vi divertirete. Stupendo, l'unico pallino che dicono tutti è lo stadio. Se facessero anche il miracolo di giocare al Cabassi sarebbe l'apoteosi, ma credo sia molto molto dura. Credo anch'io. Cristiano Giuntoli, io so che Giovanni Gabona vuole chiedere se cambierete l'inno. Abbiamo un nuovo inno, fatto un nuovo inno di Belli. Sì, è stato messo ieri per la prima volta allo stadio e sarà divulgato nelle prossime partite, nelle prossime feste, e verrà fatto anche un DVD dove i cuori sono stati registrati dallo staff e dai calciatori. Poi io volevo anche chiedergli se sa che su Facebook hanno creato il gruppo Cristiano Giuntoli a vita nel Carpi. Davvero? Sì, 390 passa iscritti. Il mercato è mercato. Questo, intanto ho un contratto che mi lega alla società per altri 4 anni fino al 2019. Onestamente la nostra forza è stata l'unione fra il sottoscritto e la proprietà, dove c'è una fiducia, dove c'è un bene, un rispetto, una stima che va al di là del calcio, e questa è stata quindi la catena corta di comando così oliata, è stata forse la forza di questi anni, di questi successi. Grazie. Buon lavoro. Grazie, arrivederci a tutti. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo, la domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Convocati. Allora vi faccio un'altra domanda facile facile: qual è stato il personaggio nuovo e più effervescente di questa stagione sportiva e calcistica? La domanda non ha anche in questo caso bisogno di risposta, perché è stato Massimo Ferrero. Ci ha fatto sorridere, magari anche qualche volta ha fatto arrabbiare, non noi ma tifosi avversari o certi puristi di un certo calcio. È indubbiamente un personaggio irresistibile, almeno secondo me. Dopo un lungo corteggiamento con Pardo siamo riusciti ad intervistarlo quando ha prodotto questo libro insieme ad Alessandro Alciato, Una vita al massimo. E allora sentiamo che cosa ci ha detto Ferrero. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria. Ognuno ha i suoi sogni inconfessabili, il mio, totalmente etero e professionale, era avere al microfono Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Ci è voluto una vita al massimo prima di averlo. Buongiorno presidente. Pronto? Pronto? Mi sento molto male. Ci sente molto male. C'è anche Alessandro Alciato. Ciao Ale.

Quindi roba di Sinistra Libertà. Abbiamo capito. Quindi ha perso le elezioni domenica, abbiamo capito questo. Lui in Liguria ha perso, se doveva votare oltre da quella parte lì, ha perso, no? No, io ho vinto, ho pareggiato. Grazie per averci avermi risollevato la giornata. Grazie presidente, era una giornata di merda. Grazie, grazie per aver... così, ogni giorno è un giorno migliore. Apri gli occhi, corri e vai a fare l'amore. Viva l'Italia, ciao a tutti. Ciao presidente. Corri.